con Tiziana dell'Associazione Culturale Controchiave, tra le organizzatrici dell'evento, presentiamo la 26esima edizione della Festa per la Cultura a Roma, al Parco della Scuola Principe di Piemonte di San Paolo, dal 14 al 16 giugno 2019. Tiziana, ben trovata. Ciao, ciao a te e ciao agli ascoltatori. Di lungo corso, ci racconti un po' di questa festa? Sì, allora, questa festa, dunque, come diciamo sempre noi, Controchiave esiste e resiste dal 91 e la prima edizione della Festa per la Cultura risale al 94, quindi io in effetti ero proprio piccola, mentre quest'anno siamo arrivati alla 26esima edizione. Prima la facevamo nei lotti di Garbatella e ormai sono invece 3 anni che ci siamo spostati proprio in questa scuola. E l'idea di riscoprire un po' questa scuola è bella, di aprirla anche alle persone del quartiere, alle persone della città e far vedere, far trovare una scuola in modo diverso, no? Perché è una scuola così bella che vale la pena di proporre in modo diverso dal solito, quindi non solo come punto di aggregazione per i ragazzi, per i bambini che fanno lezione, ma anche per tutti gli altri. Mm-hmm. Quali sono le caratteristiche di questa festa? 3 giorni pieni di tante cose per tutti, quindi è una sorta di contenitore molto grande di generi musicali, di danza, di forme artistiche, di teatro. A me piace pensarla come un punto di scambio di punti di vista, come un punto di scambio anche di pubblico che viene invitato proprio in questo spazio molto grande, molto bello, molto verde, e si passa da un evento all'altro, quindi un pubblico che magari normalmente è interessato alla musica potrebbe scoprire uno spettacolo di danza che non si aspettava, potrebbe scoprire dei writers per esempio che dipingono dal vivo, potrebbe scoprire l'Agit Brass, che è una cosa nuova di quest'anno, si chiama Agit Brass Festival, e abbiamo invitato ben 10 bande di bande di strada che possono essere sia di Roma sia del Lazio, ce n'è la banda Battaglia da Napoli, viene Fanfa Roma che è un po' è proprio la nostra Fanfa, però viene anche una banda dalla Grecia, viene anche una banda dalla Russia, e questa è una cosa molto bella, molto grande. Andremo anche in giro per il quartiere, andremo in giro per i mercati rionali a suonare e a proporre la nostra idea di cultura, la nostra idea di stare insieme. Con quali criteri avete scelto gli artisti e le artiste? Gli artisti sono quelli che abbracciano anche questa la nostra idea, il nostro modo di pensare, quindi sono quegli artisti che vogliono lavorare alla promozione e alla diffusione di una coscienza anche che può essere sociale, politica, con una base culturale molto forte e molto sentita. Noi quello che facciamo sempre da tutti questi anni è vivere la cultura, non è solamente un'aggiunta, non è solamente un qualcosa che gioca una piccola parte nelle giornate normali, ma per noi è una parte essenziale di una vita che sia sociale, giusta, solidale, equilibrata e proprio vitale, così come la vogliamo noi. Quindi sono gli artisti che condividono questo punto di vista, anche un po' impegnato se vogliamo. Da che orario si parte fino a che orario si arriva? Allora, sono 3 giorni, come ti dicevo, il 14 è il giorno di presentazione, e dal 15 al 16 invece sono proprio giorni pieni, quindi in questi giorni stiamo pubblicando sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito il programma, che come in tutti questi casi è sempre solito cambiare leggermente all'ultimo momento, ma si sa, quando si hanno qualche centinaio di artisti e di eventi tutti insieme può essere un po' elastico, diciamo. Quindi ecco, sono questi giorni pieni dalla mattina alla sera. Per un totale di quanti eventi? Ne parlavamo con il gruppo comunicazione e siamo a più di 100, tra danza, teatro, appunto performance dal vivo, attori, cantanti, danzatori, tanto tanto. Allora, i riferimenti ce li hai dati, li puoi ripetere per quanto riguarda il web? Sì, allora il nostro sito è www.controchiave.it e su Facebook ci trovate come Associazione Culturale Controchiave. Abbiamo anche fatto l'evento Facebook, quindi ci trovate. Allora, ricordiamo la 26esima edizione della Festa per la Cultura a Roma, al Parco della Scuola Principe di Piemonte di San Paolo, dal 14 al 16 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento a Tiziana dell'Associazione Culturale Controchiave, associazione che organizza la festa. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Credi, grazie, vi aspettiamo. con il musicista e autore teatrale Alessandro Fea per parlare dello spettacolo Le Promesse Spose, spettacolo finale del laboratorio teatrale musicale espressivo in campo oncologico Se diventasse una farfalla, che sarà in scena a Roma sabato 15 giugno 2019 al Teatro San Genesio. Alessandro, ben trovato. Ben trovato anche a te, grazie, buongiorno. Raccontaci, partendo chiaramente dal laboratorio. Noi siamo ormai al 10° anno di questo progetto, appunto, laboratoriale in campo oncologico per donne operate di tumore al seno. Come ogni anno arriviamo, insomma, a creare questa performance, chiamiamola così, per darci un tono teatrale di fine anno. Quest'anno in particolare il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro più approfondito da un punto di vista teatrale, perché in questi anni avevamo lavorato molto su musica, movimento, invece adesso quest'anno abbiamo per la prima volta messo in scena proprio uno spettacolo vero. Chiaramente immaginerete, è diventato il titolo molto ironico, insomma, quindi una cosa così veramente per divertirci, riscritto, diciamo, da me attraverso, insomma, tutte le improvvisazioni fatte con loro questo anno. E devo dire che è stato un anno molto bello, sono 11 gloriose donne attrici che si esibiranno per il pubblico sabato al Teatro San Genesio. C'è grande emozione, perché poi quando c'è sempre, diciamo, una performance finale scatta un po' giustamente di ansia, di paura, no? Quindi fa parte anche quello del gioco. Però il laboratorio chiaramente ha una finalità più che altro per loro espressiva, più che altro finalizzata a riprendere un po' il lavoro sul proprio corpo dopo, insomma, l'esperienza della malattia. Quindi quello che facciamo è un lavoro enorme di riacquisizione proprio di se stessi attraverso il teatro, la musica, il movimento, appunto, come dicevo prima. E devo dire che, insomma, dopo 10 anni di attività è bello vedere che i risultati si ottengono. Tante persone negli anni sono venute con noi e poi si sono magari appassionate a strumenti, corsi di teatro, quindi hanno aperto comunque la loro bacheca della creatività anche separatamente, il che per noi non può essere che un piacere. Quindi, insomma, diciamo che finalizza un po' il lavoro che si fa nel laboratorio, che è sempre molto bello, ma anche ovviamente molto intimo, molto intenso e molto, molto personale per ognuna di loro. Racconta ognuno una propria storia, un proprio vissuto. E quindi è già il fatto solo di mettersi in gioco durante l'anno, la reputo una cosa di grandissimo coraggio, ecco, perché poi la parola da usare, insomma, è questa, secondo me. Per quanti mesi si è sviluppato il laboratorio e poi quante donne vede coinvolte? Noi in genere facciamo un ottobre-maggio, un po' tipo la scuola di musica, più o meno. Quest'anno una ventina alla fine, anche se poi a fare, diciamo, lo spettacolo saranno in 11. Perché poi noi non diamo mai l'obbligatorietà, insomma, quindi chi vuole farlo lo fa, chi no, no, con molta veramente sua libertà. Nella media sono una ventina, 24 all'anno in genere, alcune addirittura con noi dal primo anno, quindi per loro è il 10° anno queste, quindi dopo irrefrenabili. Ma poi c'è chi viene, chi torna, un anno sì, un anno no, quindi la porta, diciamo, in questo senso è sempre aperta, quindi è anche una questione delle prerogative. Io lo dico sempre, non è un corso professionale che porta, diciamo, un diploma, insomma, quindi chiunque vuole può entrare e uscire quando vuole, ne ha totale libertà. E questo, diciamo, è sempre la molla che poi ha permesso a tante di loro di aprirsi, perché poi, sai, no, è un discorso anche di voglia di condividere, voglia di mettersi in gioco, anche di fronte comunque a un gruppo, per quanto poi, insomma, sia un gruppo che ha condiviso la malattia, insomma. Per chi ci ascolta, raccontiamo anche brevemente la trama di questo spettacolo. Allora, beh, già il titolo è di cabaret. Ma vabbè, più o meno lo è. Abbiamo, diciamo, preso i nostri sposi come cornice dentro cui abbiamo giocato, ricreando dei personaggi, quindi a posto dei loro titoli nominati, eccetera, eccetera, ci saranno dei personaggi inventati da loro. Renzo e Lucia sono due tricchettoni, diciamo, questa è un po' la chicchetta, quindi che scappano in India per sposarsi, molto romanacci, un po' di quei personaggi di Verdone di tanti anni fa, per cui, diciamo, sono, diciamo, piccole citazioni cinematografiche che abbiamo un po' colto per creare personaggi che poi alla fine fanno un inter molto simile ai Promessi Sposi, ecco, quella è un po' la cosa. Quindi questi ragazzi che, insomma, cercano una pace e troveranno mille difficoltà per arrivare a questo matrimonio tanto ambito. L'obiettivo era dirigere, ecco, quest'anno abbiamo proprio deciso di farci due risate, insomma tutto ciò che poteva essere divertente è stato preso e buttato nel calderone. C'è il supporto di altre strutture a questo progetto? Noi siamo patrocinati, anche se appunto il progetto ormai si autofinanzia da 3 anni perché i fondi sono stati tagliati insomma in ogni modo, però siamo patrocinati dalla Domino Onlus, che è un'associazione molto carina che sta all'interno del San Giovanni di Roma, di cui molti di questi signori fanno parte ovviamente, che attraverso la sua presidentessa, che è veramente una donna di altissimo livello secondo me, e in qualche modo ci aiuta a pubblicizzare e promuovere l'evento. In realtà loro me lo chiedono ogni anno, però ogni anno ci siamo un po' così arrangiare. Abbiamo capito che insomma l'autofinanziamento è la formula più pratica per andare avanti, perché tanto se no ogni anno non si sapeva se partiva, se non partiva, eccetera. Invece con questa formula di creare questi spettacoli, diciamo, poi i fondi vanno per farlo ripartire sicuramente l'anno prossimo. Quasi dice chi fa da sé, fa per 3. In chiusura ci dai riferimenti internet per tutte le informazioni? Il progetto si chiama Se diventasse una farfalla, proprio, sta la paginetta su Facebook, affiliata alla Domina Onlus appunto, però la pagina proprio del progetto si chiama Se diventasse una farfalla, quindi cliccate, insomma, come si dice, no? Un mi piace. E là ci sono tutte le informazioni e tutto quanto, anche per il laboratorio dell'anno prossimo che partirà il 1 ottobre, quindi tutto quello che può essere utile lo trovano lì, insomma, senza problemi. E allora ricordiamo lo spettacolo del laboratorio Se diventasse una farfalla, Le promesse spose, a Roma, al Teatro San Genesio, sabato 15 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autore Alessandro Fea. Alle ore 17, perché mi hanno chiesto di farlo presto, così vengono tutti, questa è una promessa. Alle ore 17. Alessandro, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille. Va bene, grazie anche a te. Con Alice Pasquini, direttrice artistica della 4ª edizione del Civita Street Fest a Civita Campomarano, dal 13 al 16 giugno 2019. Alice, ben trovata. Ciao. Per chi non lo conoscesse, raccontiamolo un po', com'è nata questa esperienza? Allora, questo festival, che non voleva essere un festival, è nato in realtà come un'utopia, da una coincidenza. L'utopia è: si può ripopolare un paese semi-abbandonato, un borgo meraviglioso del Molise, nel Molise un po' dimenticato in questa Italia dove appunto i paesi diventano sempre più anziani, le scuole chiudono, e forse l'idea era quella di ridare vita attraverso l'arte a un borgo, e adesso dal quarto anno possiamo dire che forse l'arte funziona per ridare vita ai paesi, visto che anche finalmente sono stati aperti dei negozi, le case sono state vendute, ma soprattutto la possibilità agli artisti di ispirarsi in un luogo del genere, perché sicuramente è un paese medievale veramente molto bello. Nato da una coincidenza, perché tanti anni fa sono stata invitata a dipingere in questo piccolo borgo senza che la persona che mi scriveva mail sapesse che mio nonno era nato e cresciuto lì. Per cui insomma, quando sono tornata, ero fuori dall'Italia, sono tornata nel borgo della mia infanzia, ho ritrovato completamente disabitato, ma con una resilienza da parte degli abitanti che mi ha decisamente commosso. Quindi l'idea di rimanere legati alle origini, anche quando poi tutto intorno il lavoro non c'è, il futuro sembra essere sempre più difficile, l'idea di rimanere attaccati alle proprie radici e fare di tutto per rilanciare questo posto è stata forse l'idea vincente, soprattutto perché è stato un festival che ha coinvolto concretamente tutta la popolazione, dai muri, alla scelta degli artisti che sono venuti a lavorare in questo luogo, ma anche dai musicisti come DJ Draft, che ha per esempio screcciato i vecchi vinili della vecchia discoteca del paese che non esiste più, piuttosto che Rubio è venuto a cucinare con le signore. Quindi più che un festival, una festa della comunità per un'idea utopica che però sembra avvicinarsi sempre più alla realtà, cioè ridare vita con l'arte a dei luoghi come Civita, ce ne sono tanti, no? In Italia, in Spagna, in Portogallo, paesi con terre che nessuno coltiva più e case meravigliose da rimettere in piedi, e ha portato tanti turisti e tanta attenzione in un luogo appunto in mezzo alle montagne dove il tempo sembra fermarsi, è veramente un'esperienza magica. Un gran bel castello poi c'è a Civita Campomarano. Sì, c'è un castello angioino in ottime condizioni, che tra l'altro, sai, non molti sanno, ma Civita Campomarano è stata la città natale di Vincenzo Poco, che è stato poi mentore del Manzoni a Milano, no? Per cui il castello di Civita Campomarano sembra moltissimo nella descrizione quello dell'innominato, e chissà che non c'è stato proprio Vincenzo Poco a raccontarlo al Manzoni. Quindi la risposta comunque della comunità c'è stata, il bilancio di queste prime tre edizioni è buono. Buonissimo, abbiamo avuto veramente tantissimo pubblico, inaspettato per un paese da così poco raggiungibile, veramente tantissimi numeri delle persone che sono venute, della comunità che si è messa a disposizione, perché sai, in un borgo così piccolo non ci sono alberghi o ristoranti, ma questa è anche la cosa che lo rende speciale, perché lo spettatore è invitato a perdersi tra i vicoli dove tra installazioni, videomapping, audio e tantissime ormai muri realizzati da artisti internazionali durante il corso delle scorse edizioni, quest'anno avremo altri 5 artisti, Argentina, dalla Norvegia, dal Portogallo, dall'Italia, insomma da tutto il mondo, chiamati veramente e scelti perché la loro sensibilità si sposa bene a un luogo del genere. Come saranno strutturate queste giornate? Allora, gli artisti cominceranno a lavorare all'inizio della prossima settimana e termineranno, quindi durante, diciamo, tutto il corso del festival è possibile vedere gli artisti al lavoro. Ci sono sempre i tour la mattina e pomeriggio alla scoperta di tutti i muri di Civita, anche delle, diciamo, installazioni più nascoste, nella parte vecchia, quella più poi suggestiva se vogliamo. Ci sono come sempre un programma fittissimo di eventi che si può vedere sul sito Civita Street Fest. Il festival si chiama Civita perché è così che lo chiamano gli abitanti in dialetto, quindi diciamo solo consonanti praticamente. E sta lo street food cucinato dalle signore per le case, ci sono i workshop anche di Savatielli e di molte altre cose gastronomiche, c'è il cinema all'aperto, tutte le attività sono sempre gratuite, quindi insomma c'è molto da fare. Le opere sono immortalate in un catalogo, anche quelle delle passate stagioni? Ancora no, ancora non ci abbiamo pensato, c'è una mappa sul sito, che è pigro, anche se io invito sempre ad andare un po' a perdersi, perché l'arte è bella quando anche si scopre in maniera così di sorpresa, però stanno cominciando a diventare veramente tante, per cui anche ci dovremmo pensare, perché poi non sono solo opere permanenti, ma sono anche installazioni e anche di altri tipi di arte effimera, che effettivamente poi è difficile avere un archivio di questo, se non così. Quest'anno gli abitanti del festival hanno fatto un video di tutto, abbiamo montato un video che ho fatto con tutte Instagram Stories, quindi è stato molto divertente perché gli abitanti di ogni età sono divertiti in questa cosa, ma ci sono appunto moltissime iniziative, soprattutto gli abitanti di Civita sono sempre molto accoglienti e ben felici di accogliere gli spettatori. Ma i giovani ci sono o fuggono altrove? Allora, questa è la sfida. Diciamo che i bambini a Civita Campomarano sono solo 5, sono 3 bambini e 2 rumeni, sono pochi giovani, perché come dicevo le scuole hanno chiuso, quindi la popolazione è molto anziana. Sono pochi giovani, diciamo, della mia età che resistono e cercano di cambiare il corso del destino del paese e grazie, diciamo, a questo festival e anche molta attenzione dall'estero, infatti appunto dicevo molti immigrati all'estero poi sono tornati a ricomprare case a Civita, noi speriamo di fare una residenza artistica, abbiamo tantissimi progetti perché luoghi come questo possono tornare a vivere anche attraverso l'arte che può incredibilmente riportare anche l'economia, quindi anche la cultura può far girare l'economia, certo. Poi insomma sono tante persone che non sanno dove andare, qua ci sono tante case così, tante terre non coltivate, c'è veramente un mondo da ricostruire. Allora Alice, ricordiamo la quarta edizione del Civita Street Fest a Civita Campomarano dal 13 al 16 giugno 2019, i riferimenti internet ce li hai dati, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a presto, grazie per il supporto. Ciao. Ciao. Con Francesca Nodari, direttrice della 14ª edizione del Festival itinerante Filosofi lungo l'Oglio, dal 4 giugno al 21 luglio 2019. Francesca, ben trovata. Ben trovati a tutti i radioascoltatori e molte grazie per questa chiacchierata, ciao Federico.

In ogni caso, uno tra questi è il progetto che avrà luogo venerdì 14 al nuovo spazio Wegil in collaborazione con Triangolo Scaleno. E il progetto si chiama Controcanto, una serata dedicata a bambini e adulti, partirà dalle ore 20, progetto appunto di Triangolo Scaleno, Controcanto Desiderio, una serata dedicata al tema del desiderio precisamente. Wegil ospita la performance Conversazione e contemporaneamente per i bambini c'è il laboratorio di tessitura, la fiasca che diventa tessuto, e poi ci sarà un DJ set, diciamo, per bambini, interessante questo tipo di idea. Il lavoro Conversazione, cioè Josephine in primo tempo, è pure di Michele Baronio, Tamara Bartolini e Margherita Masè, in collaborazione con Francesco Raparelli. Ed è un lavoro che muove i primi passi dal racconto Josephine, la cantante, ovvero il popolo dei topi di Kafka, e vuole ricucire il dialogo tra ospiti, immagini, musica e letture, insomma una narrazione della storia umana che parte da gesti desideranti e invita il pubblico a riflettere attorno al tema dell'utopia. Questo andremo a vedere venerdì a Wegil, lo spazio, nuovo spazio dove Triangolo Scaleno porta questo suo progetto. Mi informano che al nuovo Cinema Palazzo lo stesso giorno ci sarà il progetto Ulisse di Laura Tornambene dal titolo L'ultimo nessuno, che è appunto liberamente adattato in una forma metro rap, mi dicono, appunto al Cinema Palazzo venerdì 14 con Francesco Carlo Kento, Giovanni Arezzo sul Centi firma e Noemi Carpinato, che invece ha un nome normale come gli altri. Quindi questa odissea moderna tra contaminazione di linguaggi visivi, di multimediali e musicali diventa una sorta di opera musicale rap, appunto sullo scenario epico dipinto da Omero. Quindi interessante, no? Che dici? Sì, sì, sì. No, particolare, insomma, non è una cosa di tutti quanti i giorni. Questo non c'entra proprio niente, bene, però facciamo e lo ricordiamo perché all'Angelo Mai Mappy Music Band in crew con la regia di Cristiano Urbani presenta una storia come tante o forse no. Ecco, ed è un lavoro che vedremo in scena domani, mercoledì 12 giugno, curato dal Centro Giovani e Scuola d'Arte di Matemù, e si occupa dei sogni, sogni giovani, presuntuosi, fatti di notte e vissuti di giorno in un posto che non dà risposte, ma che aiuta, tuttavia, a formulare domande. Per andare, ci dicono, dall'altra parte dello specchio, Bestiaccia, questo è il titolo del lavoro, si occupa di vedere di che materia è fatta la natura umana, anche con ciò che sta a paura e tutto ciò che ha a che vedere con le contraddizioni dell'uomo, della sua immagine e la propria interiorità, quindi insomma da Pirandello in poi, dopo 100 anni, anche Matemù si occupa di questo problema grandissimo dell'identità e lo farà domani all'Angelo Mai, ore 21 con Bestiaccia. Al Teatro Centrale Trieste invece, stasera, domani e dopodomani, Le Nomadi, dedicato alle genti migranti, e proprio il Ruota Libera Teatro che con Tiziano Bertini e Fabio Traversa presenta questo lavoro con musica dal vivo e tanti attori, ispirato al grande capolavoro di John Steinbeck, ovvero sia Furore, testo del 1939 che affonda all'interno della storia americana di quello che pochi insomma conoscono questo nome, ma te lo dico io, Dust Bowl, ovvero sia la grande crisi agricola americana, le tempeste di sabbia che hanno reso desertico praticamente la parte di territori americani in quel periodo, crisi poi superata pian piano grazie agli deal di Roosevelt. Questo appunto è quello che andremo a vedere al Centrale Trieste, molto interessante questo lavoro dedicato al Furore di John Steinbeck. Mi fa piacere ricordarti che questa settimana è il debutto di Dominio Pubblico, la città degli Under 25. Dominio Pubblico è il festival interamente dedicato alla creatività giovane, appunto questo è il primo di due weekend consecutivi in cui vedremo all'opera i ragazzi di Dominio Pubblico con molti spettacoli al Teatro India di Roma. Quindi, allora, dal 14 partirà questa nuova edizione di Dominio Pubblico e ci sarà un opening party già appunto venerdì 14 dalle 18 con la presentazione degli artisti che saranno in scena e saranno tantissimi gli appuntamenti. Prego insomma andare sul sito di Dominio Pubblico per il programma completo. Io ti segnalo un lavoro sull'amore, sulla difficoltà dei rapporti di coppia, un lavoro molto delicato ma a suo modo anche leggero, che si si chiama Intimità, della compagnia padovana Amor Vacui, una delle compagnie che insomma più si sta segnalando in questo periodo. Dalla Spezia seguirà sempre venerdì dopo le 20:30 con Intimità, ci sarà Domino con quella compagnia di La Spezia, Generazioni e Schiere. Sabato 15 andremo a vedere un po' di altre cose, Tristezza Ensemble con Amore, insomma, l'amore è un po' un tema ricorrente, e soprattutto uno spettacolo che viene riproposto, che ho visto, è molto molto interessante, ovvero sia il Socialmente di Frigo Produzioni, sempre da Milano, così come Tristezza Ensemble, che sarà invece alle 21:30 di sabato. Domenica, per chiudere questo weekend, per quanto riguarda il teatro e la danza, avremo l'occasione di vedere un po' di extra, perché arriveranno alcuni spettacoli internazionali. Per la danza, dalla Lituania, Lukas Karbelis, che presenta Blank Spots, alle ore 18, sempre a Teatro India. Seguirà dalla Bulgaria, Theater Laboratory Sfumato, non so bene, The Wand of Philoctetes, scusami perché non avevo visto il plurale. Seguirà alle ore 21 una Odissea, in questo caso, di Middlesex University of London. Questo è quanto andremo a vedere al Teatro Pubblico questo weekend, proseguirà il successivo, ma ne parleremo la prossima settimana. Tra l'altro, Simone, sempre su dominio pubblico, mi comunicano che non è stato ammesso alle graduatorie dell'estate romana 2019. Esattamente, e questo è un po' grave, diciamo, che sia accaduto, perché in questi anni si sono ormai segnalati per essere una realtà molto definita del panorama romano, ma non solo romano, proprio nazionale, e quindi è una sconfitta che non è di dominio pubblico, ma è proprio di tutti, in realtà di tutto il sistema, di tutto il movimento. Questo che sia chiaro, quindi andarci significa anche difendere dei propri spazi di libertà, non soltanto quelli dei ragazzi che stanno cercando di applicare la loro competenza e soprattutto i loro desideri, la loro capacità di metterli in pratica. Anche perché, come è successo a loro, è successo anche, scrivono, a molte altre associazioni rappresentative del panorama culturale romano. Esatto, triste realtà anche questa, ahimè. Andiamo a portare ancora un paio di informazioni. Not Dancing, Carrozzeria Not, Marta Olivieri alle ore 20:30, Mariella Ceria, Cinzia Sita alle ore 21, per due lavori di danza. Quello di Marta Olivieri è In Definizione, titolo provvisorio, appunto provvisorio di indefinizione, e Bisbigliata Creatura invece sarà il lavoro che ci presenteranno Mariella Ceria e Cinzia Sita. Sono due studi per andare a vedere un po' di che cuore avrà la danza prossima di queste artiste. Not Dancing il 13 giugno dalle ore 20:30 alle Carrozzerie Not. Ultimissime due cose. L'una è indubbiamente forse un po' il lavoro importante della settimana, ovvero sia da Viva Roma, 14 giugno, venerdì, tutto venerdì fanno, di Virgilio Sileni con Petrushka al Teatro Argentina, con la musica di Igor Stravinsky, e appunto il lavoro pensato dal grande coreografo, già direttore della Biennale Danza di Venezia, ed è un lavoro molto, molto interessante. Lo spettacolo è attorno alla relazione tra marionetta e tragedia, tra gioco e archeologia, quindi sono azioni sentimentali sulla natura del gesto e l'abilità di stare al mondo. Questo è quello che appunto sarà attorno al fantoccio Petrushka e le sue vicende umane. Le andremo a vedere alle ore 21 di venerdì Petrushka al Teatro Argentina. Questo è l'ultimo lavoro, ma c'è una coda perché noi arriviamo un po' dopo, ma la settimana prossima, da lunedì in poi, ma andrà avanti fino al 28 giugno, lo straordinario lavoro che io ho visto e che consiglio a chiunque, quando non so cosa fare, cosa faccio? Al Teatro India, o per meglio dire dal Teatro India, a partire dal Teatro India, un lavoro itinerante, performativo, di Daria De Floriani, Antonio Taglierini, con anche Monica De Muro e Francesco Arbelici, e la collaborazione di Valerio Sirla. È un lavoro che affronta la Roma dei quartieri, precisamente in questo caso il quartiere attorno al Teatro India, il quartiere appunto quindi del Lungotevere, di Trastevere Portuense, precisamente dall'altro lato del Tevere, quindi seguiremo, chi parteciperà seguirà gli attori in giro per il quartiere nei luoghi che hanno visto le scene di una figura del nostro migliore cinema, ovvero sia Adriana, la giovane protagonista di Io la conoscevo bene, di Antonio Pietrangeli, film capolavoro del 1965, interpretato allora da Stefania Sandrelli, che verrà un po' fatto rivivere attraverso appunto l'azione performativa degli attori, il racconto che ne faranno lungo il percorso, ma non sarà solo un racconto del film, sarà proprio davvero, io lo dico con tanto desiderio di rivederlo, una volontà di afferrare ciò che il cinema ha bloccato lì, ma non è più presente nell'epoca contemporanea in cui noi ci stiamo muovendo, quindi come i paramenti di un tempo che non c'è più, quello appunto dello schermo cinematografico. Dal 17 lunedì fino al 28 giugno, Teatro Ittia. Quando non so cosa fare, cosa faccio? Questo è tutto. Un abbraccio Simone, a martedì prossimo. Ciao a tutti! Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.